E se non ci volevate, siamo tornati per la terza volta per il terzo podcast di D-Rocation 2.0. Noi siamo i Redeem, Zazzone, Pisani, Silvio e il buon cappello alla regia, che vi fa spernacchiare la voce tanto bene come piace a me. E lui, il bello della diretta. Il bello della quasi diretta. Non siamo ancora pronti per la diretta. Alcuni di voi ci hanno forse richiesto quando ci hanno trovato per la strada. No, non è vero, non, cioè, è vero nulla. Però noi facciamo finta. Ma tu sei Zazzone, quello di D-Rocation. Ma sai che fate veramente cagare? Avevano anche ragione. In realtà nessuno di voi ce l'ha chiesto, ma noi ci vorremmo provare a breve con qualche diretta. Sì, abbiamo qualche trovato il modo. Avrete notizie sulla vostra pagina, che sappiamo tu seguite tutti dal primo all'ultimo, che anche se non sapete cos'è. Esatto. Molti la seguono. Ah, pensavo fosse una marca d'olio. E invece no, per vostra sfortuna non vi diamo nulla da mangiare. Quanto va il D-Rocation quest'anno? Mi sono chiedendo nella rubrica del Bitcoin, dell'angolo del Bitcoin. Stava la mosca quest'anno, quindi cosa vuoi di più? Se non avete capito, quindi questo è D-Rocation 2.0, terzo podcast. Zero, come la birra che sta bevendo cappello. Perché stai bevendo la birra zero, cappello? Scandaloso. Sono più credibile io con la bottiglia. Direttamente il sudore di Silvio. Esatto. Sono più credibile io con la bottiglia di Coca-Cola. Comunque, appunto, dicevamo di D-Rocation 2.0, le notizie della settimana affrontate un po' con leggerezza. Fa un po' caldo, è il 12 di agosto, non riusciamo a capacitarci quando terminerà questo caldo. Per però mantenervi un po' più freschi, vi ricordiamo che mancano solo 146 giorni alla messa in onda di Una poltrona per due su Italia 1. E questo era il grandissimo Trent Reznor, che non manca mai in ogni puntata oramai di The Rockation. Ce l'abbiamo di fronte, insomma. March of the Pigs 1994. Oggi Cappello nella scaletta ci ha scritto anche il genere musicale. Perfetto. Rock, nel caso... nel caso in cui non ci fossimo resi conto. Questo era un brano. Se fossimo nati ieri. Questo era un brano rock. Lui lo definisce rock. Cosa significa per voi rock? Ditecelo sulla pagina di Rockation, che ricordiamo è arrivata quasi a 200 mi piace, anche 234 se addirittura aggiornatissimi, quindi arriviamo a 235, dai. Allora, interagite con noi, scriveteci le vostre idee, le vostre cavolate, le vostre insulti, così insomma... potremo ignorarle, esatto, e continuare sulla nostra strada. A proposito, stavo notando mentre ero in macchina per venire qui, mentre facevo ritardo fondamentalmente per venire qui a non registrare, che il nostro carissimo amico Daniele Fabbri è ancora sotto shitstorm dai polacchi. Ah sì, per la questione che riguardava il Papa, esatto. Chi non lo avesse seguito, Daniele Fabbri, stand up comedian molto famoso oramai per il suo, anche per i suoi spettacoli un po' anticlericali, definiamoli così, che ha simpaticamente fatto una foto durante una visita in Polonia, a Cracovia era? Guarda, per me sono tutti, tutti uguali. Polacchi sono tutti uguali. Vai, cominciamo con la sì, sì, Pizzek. Vabbè, sarà qualcosa. Insomma, una cosa del genere. Un saluto ai nostri amici polacchi. Non era una cosa di Star Wars. Può essere. Probabilmente. O un calciatore. Il terzino destro della squadra. Legia Varsavia. Comunque, dicevamo, perché questo? Perché Daniele Fabbri un po' simpaticamente ha, diciamo, mostrato in una foto. Carni. Sì, le sacre carni, appunto, ha una statua del Papa, di Papa Wojtyla, ormai Papa Wojtyla, e un po' questo ha creato non pochi problemi nella comunità di credenti polacchi di Facebook. E niente, quindi salutiamo Daniele. Tifosi, ricordiamo. Certamente. Salutiamo Daniele. Ogni cosa che scrive si deve leggere, questi deve spingere su visualizza traduzione a decine di commenti di polacchi che scrivono cose per il Papa sotto post che non c'entrano niente, anzi c'entrano, come dice lui, come Jessica Fletcher in una gangbang. Dirocation. We'll be right back. Triple Negative, I Don't Wanna Be Me, 2003, rock metal. Specifichiamo. Il compianto Peter Steele. Ci piaceva assai Peter Steele. Ci piaceva molto, è stato un bel colpo, per, un bel duro colpo, insomma, per noi. Ma perché fai questi gesti, cappello? I gesti allora, strani. Fa questi gesti Umbrella. Perché forse è al corrente del fatto che Peter Steele tenne ebbe un set fotografico su Play Woman, che, al quale lui è abbonato. Se lo ricorda ancora. Il paginone centrale. Sì, il paginone centrale mostrava il suo pene d'ebano. Ok, vabbè. Vogliamo dare delle notizie in questa di trasmissione? Esatto. Oh, noi iniziamo con la notizia che diciamo spatroneggia in questo momento nella prima pagina di Repubblica. Fammi indovinare, un'ennesima cazzata di Salvini? C'entra, ma non... Ma io preferivo i cani che mordono i padroni, perché quest'anno non ci sono cani che mordono i padroni? Immagina se ci fosse Salvini che morde i padroni. O allarme caldo su Salvini. O i cani che mordono Salvini. Magari, ma no, non si può fare. Leva obbligatoria, la ministra Trenta boccia Salvini. Idea romantica, può sembrare il titolo di un TG1 vale 1 questa qua. Esatto. Fa discutere la proposta del vice premier, non è al passo coi tempi, risponde però la ministra della difesa. L'ipotesi divide il centrodestra. Grasso, dei tre nostri amici di Leu, che ricordiamo, e tu, ok, cioè, sono i nostri tre amici di Leu, noi saremo contro. Una posizione forte, una posizione forte di sinistra. Io, allora, al di là delle posizioni ideologiche, sì, io partirei dal fatto che non c'è abbastanza puzzone in Italia per reintrodurlo in tutte le caserme. Certo. Un po' l'hanno un po' eliminato. Ricordiamo il puzzone, l'abbiamo già citato nella scorsa puntata, forse qualche amico pugliese lo conoscerà bene. Erano proprio alcuni di loro, si compravano dei migliori militari, diciamo, sì, i migliori pezzi di puzzone. Proprio cominciavi la leva, tu non avevi mai toccato neanche una Marlboro, cominciavi a fumare le canne in caserma dopo la visita dei tre giorni. E niente, quindi insomma, non c'è, essendoci fumo pacco. Cioè, il puzzone non era altro che la sapiente mescita di hashish e Bridgestone. Quindi, bella questa. Quindi riproponiamo l'idea a tutti, proponiamo anche un sondaggio. Diteci cosa ce ne pensate di questa idea, appunto, romantica, come dice Ma in che senso romantica? Non lo so, perché romantica? Forse tutti quanti dovremmo fare la leva obbligatoria per ricordarci che un po' tutti siamo ufficiali gentiluomini. Oh, certo. Oh, Silvio. Forse perché si ricorda ai tempi degli Spandau Ballet di Duran Duran. O con le spalline dei Duran Duran. Yeah. Crystal Castles, Kept 2016, Dance Electronic. C'è questo genere musicale. Capello, c'è abbassi questa base che sembra, mi sembra quasi di stare, non lo so, al Coachella. Magari al Coachella a mare. Io avrei detto al Crumi a Taranto. Ma poi 2016, capè, ma che è successo? L'hai trovato una cassetta della posta? Delle nuove proposte. Siete sempre su di Rockation 2.0, noi siamo in redeem dalle frequenze dell'internet per questo terzo podcast a tenervi compagnia con le notizie più tedianti della domenica. Agosto. Con questa settimana, seconda settimana di agosto, chiusa. Quasi quasi dobbiamo dire grazie a questi coglioni che dicono puttanate. E infatti, perché a proposito di coglioni, esatto, parliamo di una notizia. Salve. No, basta, per favore, non diamo degli amici suoi, siamo sempre lì, però basta citarlo, non bisogna ma parlare. Ma non sono più amici. No, sono ancora sì, amici, sono amici. Sì, ancora la giacchetta più verde. E il blitz, perché fanno il blitz, c'è una giacchettina che fanno il loro blitz sulle spiagge di Ostia. Di chi stiamo parlando? Ma di Caca Pound, i nostri carissimi amici che si sono recati sulle spiagge di Ostia, Ostia per appunto fare dei controlli riguardo a che titolo non lo so, ma riguardo la vendita di materiale pericolosissimo da parte di alcuni ambulanti abusivi sulle spiagge di Ostia. Ma mi sembra giusto, cioè chi sono questi abusivi? I venditori di cocco? Io non lo so, io direi potete venire tranquillamente sulle nostre spiagge a parlare con i venditori di cocco. Sì, sì, prego. Vorrei prego. Capire se sì. sono disponibili. Forse alcuni di voi che ci ascoltano dal nord Italia non conoscono determinate dinamiche di spiaggia. Che calibro vuole la licenza? Sì, inviterei molto questo scimmie. Diciamo a farsi un viaggio qui in Puglia per controllare le spiagge pugliesi, una ventina di militanti guidata dal consigliere 20 per cacciare 20 militanti 20. Guidata dal consigliere municipale Luca Marsella ha allontanato un venditore di cocco sotto gli occhi dei bagnanti per pedica che dir si voglia del PD e la solita pagliacciata, mentre posizioni durissime ma soprattutto posizione ancora più dura quella di Sinistra Italiana che parla di violenza illegale ancora con la legalità noi stiamo ancora dietro Sinistra Italiana ha la stessa posizione dei vigili praticamente sì. Infatti consigliamo un po' a tutti. Beh, forse ha le stesse percentuali della percentuale di vigili urbani nella popolazione italiana. Saranno un 2.5%. Sì. Basta garofani rossi all'occhiello più capelli bianchi. Esattamente. Di Rockation. We'll be right back. Rude Awakening, i Prong, questo era il 1996, rock metal. Slash, non è un trattino. Metal. Sono slash, sempre rock. Slash era rock metal. No, no, vabbè. Se non aveste capito, nonostante, forse non è chiaro. Se non aveste capito, nonostante la verve, la simpatia di questa domenica di Pisani, travolgente, questa è di Rockation 2.0 e continuiamo con le notizie della settimana. Che possiamo assegnare il premio Darwin della settimana. Tu che dici? Io direi proprio di sì, perché per concorrere devi essere morto, ma manca poco. Ma manca molto, manca pochissimo, direi. Si vanta sui social di aver falsificato il certificato vaccinale della figlia, denunciata dalla scuola. A quanto pare una mamma novax spinta. Ma tu l'hai letto? Il vantaggio, un paio di settimane fa, si vantava proprio di aver gabbato Questi fessi della scuola. E infatti c'è proprio eccolo qua davanti ai nostri occhi, lo screenshot della conversazione appunto incriminata. Cita testuali parole: ti è rimasto un foglio mandato dall'ASL con sulle vaccinazioni che devi fare? Due punti interrogativi. Perché insomma, è sempre lì il complotto. Ecco. Io ho fatto così. Punto. L'ho preso. Punto. Scannerizzato. Punto. Cambiato data. Punto. Fotocopiato. Punto. E portato alla materna. Punto. Fine. Punto esclamativo. Hai visto? Hai visto? È così facile. E su, cioè, raga. Comunque sì. Vabbè, devi sapere qualcosa di codice Morse. Però capisci perché. Io mi sono fatta furba così, continua. Punto esclamativo. È andato tutto bene. Benissimo. È andato tutto bene. Se vedete in prima pagina, così. È andato tutto bene. A quanto pare la vicenda, appunto, risale allo scorso anno scolastico. C'erano 70 bambini iscritti e la figlia della signora era l'unica a non avere le certificazioni. Benissimo. L'unica. Quindi li ha contagiati tutti. Indistintamente. La mamma continuava, a quanto pare, continuava a leggere da Repubblica a temporeggiare, sostenendo di aver fatto richiesta all'ASL per avere il documento. E d'altra parte la normativa non era chiara, spiega Alberto Erculiani, che il cognome è tutto un programma, che presiede il consiglio d'amministrazione della scuola dello scorso maggio. Dopo che lo screenshot del dialogo tra le mamme novax è iniziato a circolare in rete, abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni da tutta Italia. Per fortuna c'è ancora gli altri 69 bambini iscritti, meglio i genitori, quelli sani di mente, sì, si saranno un po' girati di palle. Beh, direi abbastanza. Perché questa situazione? La situazione sta un po' peggiorando, per prenderla un po' più alla larga come argomento, perché a quanto pare c'è chi anche al governo, nella persona di Paola Taverna, che è il nostro vicepresidente, la nostra vicepresidente del Senato. Stiamo messi mego, così. Mego complimento. A quanto pare in questa settimana, anzi un paio di settimane fa per essere precisi, ma noi non arriviamo tardi perché è un argomento sempre attuale, citava testuali parole: oggi i centri vaccinali sono similabili a quelli che vengono paragonati i marchi per le bestie. E queste sono le famose parole di un medico. Non ho capito. No. L'esegesi del discorso. Che proprietà di linguaggio. Ma quale bravura, cioè, in realtà siete voi che non la capite, ragazzi. Sì, cioè, io ho qualche lacuna in inglese scientifico. Infatti, è soltanto una questione di linguaggio tecnico, Pisani. I medici all'ascolto, tutta la comunità scientifica all'ascolto, ne converrà che comunque, diciamo, i centri vaccinali... Medici o personaggi similabili? Sono appunto dei posti, i centri vaccinali. Ma sono, i posti brutti, marchi per le... I morti marchi per le bestie. Ma poi esistono dei centri vaccinali? Cioè, questa è anche la domanda. Solitamente sì, però i centri vaccinali sono questi centri vaccinali con questi deportati, con le catene ai piedi, terribili. Le fruste. Auschwitz, ricordo che ero un bambino. Mi hanno fatto la punturina. E queste cose qui, capito? Questo immaginario che si sta venendo a creare con le descrizioni fatte da questa gentaglia. Esatto, lei e anche il suo esimio collega Fontana, che pare che adesso parli di tutto, che dice insomma mi sembrano troppe 10 vaccinazioni, ma io non sono un medico, quindi muto. Ok, anche, cioè, ho capito, anche per me il caffè di tua madre non è buono, però non sono un barista. Ma non sono un torrefattore. Non sono un torrefattore, esatto, ancora sta prima. C'è da dire che quella che alla fine, tutta questa gente qui, alla fine si fa male da sola, insomma, si mette i bastoni sulle rotule. Lo sappiamo, quindi diciamo... Il problema è che loro sono vaccinati, sono i figli esatto, non esatto, esatto, esatto. Sono gli altri che non si devono vaccinare. Quindi, come ricordiamo, con gli altri geni. Vecchia generazione, erano i figli a falsificare i certificati dei genitori per non andare a scuola, poi quei figli sono stati bocciati, sono diventati genitori dei 5 Stelle e i loro figli a loro volta saranno morti. E perché lo sappiamo, i centri vaccinali sono... I marchi per le bestie! Questi erano i Weezer, Buddy Holly, 1994, rock pop. Meglio noti per la pubblicità della Scenic di qualche anno fa. Ma sì. Oppure... Sono comunque tornati alla... Ma pensa in realtà, fa questi cerni, perché spera che un giorno la Renault si renda conto di noi e ci possa pagare. Le prova con tutte. Non è il mio costume inserire pubblicazioni di prodotti commerciali, come ad esempio, è come se parlassi della birra italiana, la nostra bevanda di oggi, è una birra prodotta dalla Coop che ha un grande vantaggio, essendo italiana, esatto, non fa venire il cerchione se ce l'hai già. Prima la birra, prima l'italiana, le birre italiane, assolutamente. Costa solo 50 salutiamo centesimi. Tutti i bevitori di birra italiana, soprattutto i produttori di birra, esatto, italiana. Costa soltanto 50 centesimi della Coop, la potete trovare tranquillamente. È molto maltosa al gusto. È gusto malta. Gusto malto e insomma fa schifo al cazzo. Però diciamo, però non gridiamo. Se qualche produttore di birra italiana fosse interessato a finanziarci noi, potrebbe metterla a 52 centesimi. Noi ci siamo, quei due centesimi ce li prendiamo, noi, per ogni birra. Parlando di roba da bere, roba da mangiare, diciamo, abbiamo notato questo simpaticissimo articolo, così un po' più leggero, per non essere sempre pesanti, fare sempre roba pesante. Intanto qui accendiamo un ventilatore, se sentite un piccolo rumore sottofondo è il nostro ventilatore perché ci fa troppo caldo. Diciamo una notizia molto molto molto simpatica, Pasta Grannies si intitola l'articolo. Sì. Così io lo seguo il canale. Lo segui? Siamo un fan. Così le nonne italiane sono diventate le web star della cucina. Il canale YouTube creato... Nonne italiane come la nostra birra italiana. Proprio loro. Prima le nonne italiane. Il canale YouTube creato 4 anni fa ha 220.000 iscritti alla faccia, altro che la pagina di Dirocchese. Un vero e proprio viaggio tra le ricette regionali della nostra tradizione gastronomica. Insomma, un articolo tratta un po' di quello che sono i video presenti, fa anche vedere questi video. Ma la cosa assurda è che questa idea l'ha avuta una donna inglese. È stata un'ottima idea, perché poi alla fine oramai col porn food, ora associare grannies a porn ovviamente non è il meglio della vita, ma bisogna esplorare, poi degusti, per carità, cioè, si trova anche quello. C'è da dire che sul cibo gli inglesi, senza voler fare campaninismo forzato, voglio dire, anche la mia pasta al forno liquida avrebbe successo. quella con i maccheroni galleggianti. No, ma apriamo l'angolo senza pasta. Apriamo l'angolo della ricetta. Spiegaci la pasta al forno liquida. La pasta al forno liquida è una ricetta che ho messo a punto negli anni dell'università. Ah sì? Quando la notte, mentre giocavo a Civilization anziché studiare, avevo bisogno di nutrirmi. E non potendo fare rumore la notte per fra fornelli, pentole, scolapasta vari, cercavo di condensare i nutrienti in un pasto unico, okay. Un po' come quei beveroni che vengono bevuti a 800 su quali poi parleremo magari dopo, perché la pasta al forno liquida è una ricetta molto semplice: salsa, olio, sale, scamorza. Metti tutto in un bicchiere di vetro, metti nel microonde per 4 minuti. Dopo puoi intingerti anche dei taralli. È deliziosa. Lo consigliamo a tutte e a tutti, quindi, a casa, la pasta liquida, pasta al forno liquida di Pisani. Ma anche a tutti gli ascoltatori, direi, mandateci le vostre ricette più assurde che avete fatto durante gli anni dell'università, oppure che state continuando a fare. Oppure anche fuori corso vale. Anche fuori corso vale. Va bene anche per i quarantenni fuori corso, quindi salutiamo i quarantenni fuori corso a casa, perché loro sono studenti for life. E sappiamo che sicuramente ricette, anziché studiare, stanno ascoltando di Rocation. Esatto. Tu, studente fuori sede, mangia bene, mangia Pisani. Don't think shit, stink, pink gators, my Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn, dead right, if the head right, Biggie there, and I, Papa been smooth since days of under rules, never lose, never choose to, bruise, cruise, who, do something to us, talk, go through us, girls walk to us, wanna do us, screw us, who us, yeah, Papa and Pop, close like Starsky and Hutch, stick to clutch, yeah, I squeeze three at your cherry M3, bang every MC, easily, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace, keep my peace. Cubans with the Jesus peace, with my peace. Packing, asking who want it. They got it, nigga flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so mean. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so mean. I put O's in NY onto DKNY, Miami, D.C., prefer Versace, All Philly hoes know it's Moschino, every cutie with the booty for the coochie, now who's the real dookie, meaning who's really the shit, the niggas ride dicks, Frank White push the six, called the Lexus, LX, 4.5, bulletproof glass tints if I want some ass, gon' blast, squeeze first, ask questions last, that's how most of these so-called gangsters pass, at last, a nigga rapping about blunts and bras, tits and bras, menage sex and expensive cars, I still leave you on the pavement. Condo paid for, no car payment. At my arraignment, built for the cleaning. Your daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty. That's how I stay still. Richer than rich. So you niggas come and get me. Come on. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken. You're so fake. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken. You're so fake. I can fill you with real millionaire shit. That's cargo, my cargo. 160, swiftly. Wreck it by your new one. Your crew run, run, run. Your crew run, run. I know you sick of this. Name brand, nigga with flows. Girl, say he sweet like licorice. So get with this, nigga, it's easy. Girlfriend, here's a bit. Call me round 10, come through, have sex on rough, that's Persian. Come up to your job, hit you while you're working, for certain. Pop a freaking, not speaking, leave the ass leaking like rapper demo. Tell them who, take their clothes off slowly. Kill them with the force like Kobe, dick black like Kobe. Watch me roam like Roman. Lucky they don't owe me, where to say, show me, homie. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess it's why they're broken, you're so fake. Baby, baby, baby, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess it's why they're broken, you're so fake. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess it's why they're broken, you're so fake. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess it's why they're broken, you're so fake. È l'angolo hip hop che non può mancare mai nelle puntate di Rockasion, rappresentato dignitosissimamente nella playlist di oggi dal Notorious B.I.G. Hypnotizer nel 1997 e come genere rap. Sempre grazie a Nico, un piede in ogni porta cappello. Non avete mai provato, come suggeriva South Park, a dire Biggie Smalls tre volte davanti allo specchio? No, una prova da fare. Provate. Tornando un po' a quello che parlavamo poc'anzi, Pisani ci ha dato un consiglio un po' culinario suo, personale. Non ci aspettavamo proprio questo, perché io in realtà immaginavo Pisani un po' cotto e mangiato. Immaginavo Pisani un po' come se tua nonna tenesse un canale YouTube, no? Come sarebbe? Allora, quella che ho proposto era sicuramente una ricetta fusion, dato anche l'aspetto della lava. Ma pensavo che mi hai fatto riflettere sul fatto che queste nonne sono veramente entusiasmanti su un canale YouTube, perché crea anche il contrasto con l'età. E ho immaginato mia nonna tenere un canale YouTube, sarebbe veramente fantastico, soprattutto perché mia nonna è morta. Sarebbe veramente incredibile. La seguiremmo tutti, comunque saremmo sui follower, non peraltro per la simpatia, voglio dire, non tanto per la cucina, forse per la simpatia. Può essere anche una nonna brava cuoca. Era una brava cuoca? Sì, sì, era una brava. Se la cavava, se la cavava. Un saluto. Ciao nonna. Ciao. Un post scriviamo anche. Ah, vedi che ha ritrovato intanto cappello il mio pipi gas, che mi serve perché, come sanno i miei amici, deve fumarsi la mia canna, diciamo la verità, la canna. Quindi lo possiamo noi siamo dire. Relegati in seminterrati senza connessione, no, perché Zazzone deve fumarsi la canna. No, è questa la verità, raga. Io non faccio come si dice out, faccio gli outing, perché se fai tu coming out, perché se lo fa l'altro è coming out. Okay, se lo faccio io è out. Com'era? Ce lo insegnavano a Bologna, me lo sono dimenticato. No. Vabbè, non ci interessano queste etichette, insomma, faccio delle dichiarazioni libere sul mio status di fumatore indefesso, every day, every night. A proposito di sostanze stupefacenti, allarme ragazzi, allarme, tutti fermi tutti sulle consiglio spiagge, a tutti sulle spiagge italiane. Il numero non so se è odierno, ma probabilmente sì. Se non è odierno del 7 agosto scorso, una notizia comunque del di qualche giorno più fa. Amato dagli italiani. Stavo per dire qualcosa di troppo pesante, cioè avrebbero chiuso immediatamente il podcast mentre registravamo con 4 sbirri fuori ad aspettarci. Noi diciamo un quotidiano che il nome è tutto un programma, sì. libero di dire quello che cazzo libero vuole. Di dire stronzate come esatto lo trovate anche nei titoli di bravo Crimi che abolisce l'ordine dei giornalisti. Non è un'idea liberticida, anzi, cioè, in maniera tale che loro possano essere liberi di dire tutte le che vogliono. Puttanate che come il titolo che campeggia alto su, in prima pagina sul Libero: allarme droga estiva. Vacanze funestate dal consumo di stupefacenti. Attenzione ragazzi, è il funestate. Vacanze funestate. Io immagino qualcuno che prenota, va in hotel, non so, a Gallipoli, prende il suo bel 4 stelle dopo un anno di duro lavoro, entra in bagno e trova il tossico. E soprattutto si rivolge alla reception dicendo: quest'albergo è funestato di tossicodipendenti. Non ne sentivo il termine funestato, forse dal 42, forse il 43. L'Italia prima in Europa nella classifica di abuso di eroina e cocaina, ma va, questo lo sapevamo già da tempo, però rendetevi anche conto che se c'è una situazione del genere e l'espressione politica è quella odierna, diciamo, dei dirigenti odierni, ora capisco che però non è proprio roba buona, è un po' avariata. Boom anche dei prodotti sintetici, famosi prodotti sintetici dagli effetti sconosciuti. Caro Libero, allora perché li prendono? Esatto, cioè, tra l'altro, se gli effetti sono sconosciuti, provali e poi li conosci, cioè, fa un po' come abbiamo fatto anche noi qua, renditi conto. Magari ti fa scrivere un articolo di giornale. Probabile. Il piano deve sicuramente più credibile di questo. Il piano del ministro Fontana: prevenzione nelle scuole e sensibilizzare le famiglie. Ma è proprio bravo questo ministro Fontana che propone delle cose nuove. Perché no? Allora, noi un piano innovativo. Ma sì, non ho mai immaginato che si potesse sconfiggere la droga, un fenomeno, parlando nelle scuole, addirittura. Parlare di parlare nelle scuole, cioè lui non fa nulla. Non è che ci va lui a parlare, dice, qualcuno, secondo me dovrebbero parlare nelle scuole. E allora, ricordo quando noi eravamo al liceo, non so se ti ricordi, da zone, che vennero due carabinieri, due finanzieri, non mi ricordo. Bellissimo. Chi, vennero a tenerci una lezione proprio come questa qui. Stiamo parlando di 20 anni fa ormai, quindi insomma, il livello è quello. Per sottolineare quanto nuova è l'idea del ministro Fontana. E comunque sì, mi ricordo che proiettarono nella sala un video di un sequestro di un'ingente quantità di piante di marijuana. Ah, vero, vero. Già di per sé un video di un sequestro, perché dovrebbe sensibilizzarsi contro l'utilizzo delle... Questo non l'abbiamo ancora capito. Dopo fatto sta che ci alzammo in cinque urlando no! Un po', diciamo, a sgamo la cosa, un po' come si suol dire, quindi, un po' gli occhio vigile del possiamo dirlo? Del vigile? No, non era, magari fu stato un vigile il comandante Vincenzoni, Megoglioni, che salutiamo, non è più presente qui nella nostra città, che insomma veniva a fare un po' di proselitismo dell'arma dei carabinieri a scuola. Quindi diciamo al Libero, faccio vedere, bruciare bruciare questa roba, bruciare questa arma che va sempre forte qui al Meridione. Ma la droga estiva è diversa dalla droga invernale, e questo volevo appunto chiedere al Libero: qual è la differenza tra droghe estive e droghe invernali? Io mi drogo a strati. Preferisco anche questa l'idea. Ad agosto ci sono i saldi. Non vuole sapere un mio amico. Speriamo. Non vuole sapere un mio amico. Dio col tuo amico, che lo vuole sapere anche un altro mio amico. Sì, sì, sì. È il raccolto della prossima stagione. E quindi mi raccomandiamo a tutti: allarme droga estiva, troppo fresca, troppo dolce da non prendere col caldo, meglio la droga invernale. Right. Supergrass, alright, 1995 pop. Finisce il bollico cappello nella scaletta. Siamo sempre su di Location 2.0. Noi siamo il Redeem e ritorniamo con un blocco dedicato all'economia, perché dicono tutti quanti: parlate di economia, parliamo, per favore, parlate di economia. Importante educare sull'economia. Esatto. Vabbè, pensiamo, quello è un problema. Parlare, cioè, questo non vuol dire che ci capiamo qualcosa. Okay. Comunque, noi parliamo comunque, infatti, non significa nulla. Turchia, parliamo di Turchia, che è l'argomento caldo della settimana, della giornata. Cosa sai della Turchia? Caso. Beh, la Turchia di Erdogan, che è notoriamente il gemello cattivo di Paolo Borsellino. Okay, perfetto, quindi questo è quello che sa Pisani. Però dopo magari possiamo pure approfondirla questa cosa. La ripresa delle borse è caratterizzata dall'ansia per le crisi finanziarie di Ankara, che Erdogan, Paolo Borsellino, non dimostra di voler sopire. La Turchia, dice l'articolo, resta uno spettro ad agitare i mercati, che già venerdì hanno registrato forti cali a seguito dell'avvitarsi della crisi. Come si avvita la crisi? Ma soprattutto come si agitano i mercati? Forse le tende un po' con le spalle. Io me li immagino questi mercati turchi con la di vento si alzano, capito? E perdono le loro dolcissimi. Fisicamente un mercato. I pronostici sono difficili, ma dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, non sapevo neanche che si chiamasse, ma si legge Recep Tayyip, non stanno arrivando segnali di un cambio di rotta in economia. Quindi? Il timore è che i mercati proseguano sulla scia del venerdì nero, con Wall Street che è chiuso in rosso dopo le perdite pesanti su Tokyo. Sganciato bombe su Tokyo Wall Street di nuovo? Meno 1,3%. Di popolazione morta? Di bombe buttate? Non lo so. E in Europa, dove Milano è stata la peggiore, quello lo sappiamo. Quelli milanesi non stanno molto forti in questo periodo. Contraccolpi ci sono anche sullo spread tra BTP e Bund. Cos'è Bund? James Bund. Mio nome è Bund. James Bund. Che ha sfiorato i 270 punti di base. Cosa vuol dire? La base è un po' è come la metafora del baseball, tipo, sì. Capito? Okay. 5 ore non ci capisci niente. Un caso, insomma, una serie di situazioni. Vabbè, in che sostanza vanno è roba masciole finanziarie. Masciole alle quali io e Silvio non siamo assolutamente buoni. Nulla. Ed è per questo, era solo una scusa, perché volevamo introdurre l'angolo del Bitcoin di Pisani. E siamo tornati con i non consigli finanziari che non volevate. La domanda che vi siete sempre posti: ci si può arricchire, diventare schifosamente ricchi e smettere di lavorare col Bitcoin? Sì. La risposta è boh. Su questo, a meno già. Che non abbiate un almanacco dal futuro. Ok. Vabbè, e quindi in sostanza, che cosa è successo in Turchia? C'è un'inflazione al 15% che ha fatto casino. Oh. Se fosse turchi e avesse uno stipendio in lira turca e l'avesse convertito in Bitcoin, avreste perso solo il 9,92%. E che non è niente, dai, alla fine. Perché il Bitcoin è in crollo generale, così come tutte le criptovalute. Ethereum al meno 21, Ripple al meno 29, Bitcoin Cash al meno 18,3%. Quindi grandi saldi di agosto, se volete comprarli, forse questo è il momento giusto, forse scenderà ancora. Quindi Pisani, cosa ci consigli di fare tutto ciò, in tutto questo marasma? Di sperare. Io comprerò quando scenderà ancora un po', perché a fare i soldi lavorando sono buoni tutti, dai. O se no posso chiedere consiglio a Salvatore Ranzulla di Location. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the f- They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the f- They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the f- They know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just strut. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the f- They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the f- They know what is is what, but they don't know what is what. They just show what is what, but they don't know what is what. They just show what they know, what they don't know what is what. They just strut. What the strut? Strut. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? They know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just know what they know, but they don't know what they know. They just strut. What the? What is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? They know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just know what they know, but they don't know what they know. They just strut. What the? Fatboy Slim, Star 69, era l'anno 2000, preciso, tondo tondo. Guarda Cappello come è preciso quando si parla di Fatboy Slim, nello Slim, specifico, sì. Perché lui lo definisce Big Beat / Techno. Col CH. Non è semplice elettro. Esatto, assolutamente. Siamo sempre su di Rockation 2.0, noi siamo sempre i Redeem che vi tediano, vi divertono, decidete voi, sulle frequenze dell'internet con le notizie più o meno sparse nella rete. Ci è capitato sotto mano una notizia interessante, perché se ne sta parlando in questo periodo. Gallipoli, vacanza meta del Salento, gettonatissima era mai una ex diciamo, ex Salento. una volta conosciuto come Salento, non se la sta passando molto bene come città, diciamo, a livello turistico, poiché molti turisti hanno scelto altre mete. Il modello Gallipoli è ha fuggito soprattutto in un territorio come il nostro, che insomma, è slow come noi. Si è creato un merdaio invivibile, Esatto. Parlando appunto di merdaio, andiamo appunto su Gallipoli. Vacanza da incubo per due giovani sequestrati da spacciatori e portati a Monopoli. Ringraziamo i titolisti della Gazzetta del Mezzogiorno che ci fanno capire tutto, sono l'anti-clickbait. Esatto, quindi noi abbiamo aperto un articolo giusto perché volevamo approfondire, ma il titolo ci diceva tutto. Una delle vittime è riuscito a dare l'allarme a una stazione di servizio. Queste sono tutte notizie aggiuntive, come vedete. Arrestati due, indagini in corso. I due ragazzi accusati avevano condiviso l'appartamento con i sequestratori. Cosa è successo? Facciamola breve. Dunque, questi due ragazzi vanno in vacanza in Salento, sono pugliesi tutti e quattro i protagonisti. Condividono una delle case in affitto con altre due persone. Queste altre due persone avevano una borsa di droga estiva. La borsa era leggera. La borsa era molto leggera. Hanno perso la loro droga avranno perso nel naso, e hanno pensato bene di dare la colpa dello smarrimento ai loro coinquilini, che sono stati prelevati, messi in una Volvo e portati in direzione Monopoli per dare spiegazioni a colui a cui dovevano dei soldi dello smarrimento. Hai detto bene, soldi. Soldi dello smarrimento nel naso del maltolto, diciamo. Poi i due tipi hanno approfittato di un autogrill, hanno detto magari devo andare a fare la pipì. I due cidoni ci sono cascati ancora una volta. Scusa, così fa capire del mondo. La furbizia, esatto, la furbizia. E si sono tatti a gambe levate, sono scappati. Infatti è stata una sosta in un autogrill ubicato lungo la SS 379, a salvare i due giovani. Della 16, la conosco. Sì, la conosci. Cosa vai a fare? Tratta la mia fidanzata. Pensavo si passa per di là qualche giovane passatempo dall'autogrill ubicato lungo la SS 379. Sicuro, lui si ferma lì. Sono anche sicuro di sono anni che ti conosco. Di sapere qual è quello che passa dopo Ustuni è bianco e forse conosce anche il barista, certo. A salvare appunto i due giorni. Comunque la droga non ce l'ho io, scusate. Magari ad avercela. È stata una sosta appunto in un autogrill con la scusa di andare in bagno. Come ha detto Silvio, ha chiamato il numero di emergenza. Io l'ho sparato e ha chiesto l'intervento. Invece si è andata così. Gli agenti del commissariato di Monopoli hanno poco dopo rintracciato e fermato la vettura con a bordo i quattro giovani, tutti portati presso gli uffici di polizia per far luce sulla vicenda. Guardate com'è elegante questa frase: tutti portati presso gli uffici di polizia per far luce sulla vicenda. Punto. Gli hanno fatto un culo a strisce, immagino. E far luce sulla vicenda. In commissariato uno dei due baresi autori del sequestro durante la perquisizione è stato anche trovato in possesso di 0,16 grammi di cocaina. 0,16 grammi di cocaina, mi insegneranno alcuni amici all'ascolto, che non è proprio una bella serata, diciamo. No, hai avuto un pacco mega mondiale, amico. Celati dalla soletta di una scarpa, voi immaginate. Forse li avevano già persi, esatto, gli altri. Okay. Individuato anche l'uomo che i due identificavano come capo. Ah, quindi hanno anche fatto inquadrare il capo. Il capo, un barese, agli arresti domiciliari per reati in maniera, guardate un po', stupefacenti. Che mentre i quattro erano in commissariato, ho cercato di contattare telefonicamente i due arrestati. Sono in corso le indagini per identificare eventuali ulteriori persone coinvolte. Quindi praticamente questi due, se non restano tutta la vita in carcere, muoiono. Escono e gli arrivano le pallottole vaganti a caso, perché quindi hanno fatto arrestare un intero clan praticamente. Sì. Erano memorizzati su cellulare infame 1 e infame 2. Donne e uomini a casa all'ascolto, Gallipoli è una meta bellissima, soprattutto ora che non costerà più niente un cazzo. Sono notizie stupefacenti su D-Location. Takes me away and that rise up, that one. Misfits, Dug Up Bones 1997, punk. Bellissimo, ricordo ancora il concerto a Bari nel 2008, che non ricordo. Sì, anche perché non c'era nessun Misfits dei Misfits. C'era solo il cantante dei Misfits, si sentiva malissimo, anche perché era proprio, come diciamo noi tecnicamente, in bacio al mare, cioè di fronte al mare, e le onde del mare portavano la musica verso il mare. Quindi. Comunque, piccolo fun fact, esiste una cover band dei Misfits, sì, composta unicamente da ciccioni, che si chiamano i Misfat. Andate a googlarla, cercatela, andrò io per primo, perché è molto molto molto simpatico. Torniamo a parlare un po' di notizie che stanno un po' facendo parlare il web, perché non succede un cazzo ad agosto, non succede niente, quindi ce lo inventiamo, corriamo alla bacheca di Facebook, qualcosa, sì, troveremo. Qualcosa la troviamo. Io ho trovato diciamo una cosa che ci ha postato un quarto braccio, possiamo, esatto, definirlo, dei Redeem, un quinto se includiamo ovviamente il cappello, che è il buon Maggioletti, che salutiamo, che è molto timido, che non vuole venire, far parte di questo, e soprattutto la domenica in down, sì, questa è la verità. La verità è questa, che non ci risponde mai la domenica, che ci postava tempo fa su un, diciamo, un nostro gruppo una delle, diciamo, una chicca, notizie, mm-hmm, sì, una chicca dell'ultimo periodo, che è questa sorta di moda che è nata per i pastoni. Se riesco a trovare la... Cos'è un pastone? Diciamolo ai nostri amici, spieghiamo cos'è un pastone, diciamo, cos'è un pastone, un beverone, come chiamarlo? Chiamiamolo pastone per non essere, diciamo, esatto, confuso con qualcosa di un po' più volgare. Un bibitone. È un bibitone che potenzia, almeno in teoria, come dicono i promotori, le proprie capacità autocurative. A me viene sempre in mente il fattore rigenerativo. Cioè, anziché mangiare, bevi questi intrugli spesso insipidi, che dovrebbero farti del bene, che ti venderanno sempre come buonissimi. Oh, è al cioccolato, mi mangio il cioccolato, esatto, se voglio il cioccolato. E solo per non fare nomi, vari Herbalife, i vari Vita Bella, le per fortuna varie non cadere. Ne conosciamo, no, Juice Plus, che sono le più famose. Immagino che un po' tutti noi conosciamo qualcuno che è entrato nei trappoloni dei beveroni. Voi riflettete sulle persone che li utilizzano e che li assumono e fatevi due domande. Beh, un po' questo è il caso per la nostra si chiama Carrie su Facebook, diciamo, sono detto i nomi, Carrie, e non è Carrie Fisher, anche perché è morta anche lei. Ciao Carrie, ciao nonna. Ciao. Lei posta diciamo, un articolo del pluripremiata rivista PMInternational.com, porca madonna, attenzione, non è reato bestemmiare la madre di Gesù. Di Gesù. Gesù, a quanto pare sì, la madre no. È tutto il contrario di Bari. Se bestemmi, esatto, invece la mamma, vedi, è patriarcale un po' anche la legge. Esatto, esattamente. Lei pubblica, tornando al discorso di Carrie, Omega 3 vegano, finalmente. Ah. Presentazione di un'innovazione mondiale, Fitline Omega 3 vegan, con tecnologia micro. Dove l'hanno presentata? Al MIT? Non lo so, allo Sheraton, da qualche parte l'avranno presentata. Non ho assolutamente idea. Al CERN di Ginevra, mi fa piacere vedere, diciamo, Omega 3 vegano, scritta Omega 3 vegano, accostata a un'immagine dove ci sono dei gamberetti, sardine portoghesi, perché sono più grandi, sì, salmone, del ottimo salmone, del nuovo e della semini, e dell'avocado, che probabilmente anche quello è stato prodotto da un mammifero, è stato cagato da un mammifero, sì, un bambino peruviano. Sicuramente state distruggendo l'ecosistema e il lavoro dei messicani mangiando l'avocado, visto che stanno veramente devastando la tecnologia. Sono anche dei semi di chia che ho assunto, li ho ribattezzati semi di chia al coraggio. Continua Carrie con un altro post. Lui è stata il e lì poi parte, capito, dopo l'articolo sull'Omega 3 vegano, certo, parte lo sponsor. Ho già la foto, devo dire che è molto allettante, insomma, è un barattolo bianco su un cuscino con delle arance sopra, e si cucina arancione e arance, e sopra troneggia la scritta: lui è stato il terzo prodotto di cui mi sono innamorata, ha ridotto quasi a zero la mia allergia al nickel, che mi stava facendo impazzire dal purito. Da quando lo uso non mi sono ammalata neanche una volta, e soprattutto zero ustioni al mare. Probabilmente non è andata al mare, adoro. Non ha... assunto nickel. Esattamente. Ma soprattutto, se, ma soprattutto il nickel, il nickel è presente in tutte le frutta e le verdure, quindi se... qui sopra sarà carne. Vabbè, quindi, cioè, questa è la nuova moda che tanto va per la maggiore. Ricorda la spesa che si faceva per i campeggi, vi ricordate? I mattoni, sì, di, sì, Giamonilla. Giamonilla, esatto. Con l'insalatone Rio Mare in barattolo. Comunque, al contrario della Giamomilla e dell'insalatone Rio Mare in barattolo, un piccolo vasetto di questa deliziosissima intruglio costerà all'incirca 2700 euro. Convenientissimo, quindi all'amici IVA esclusa, scuola. Perché poi devono aumentare, devono ancora fare il calcolo. E beh, perché poi tu diventi anche venditore, assolutamente. Detto ciò, io direi... Capello ci insulta con i gesti, quindi vogliamo andare con un pezzo? No, io direi invece che io direi l'amici a casa. A me questa storia ricorda molto un'altra storia, perché sappiamo che... Vedi. La storia dell'alimentazione è ciclica, come la storia vera. Hai ragione. E non quindi... so se conoscete la storia dei Kellogg's. Non la conosciamo. Dei Cornflakes. Dei Cornflakes. Davvero? Non dei Cornflakes, dei Cornflakes. Ah, dei Cornflakes. Così come non si dice Corso Cavour o iPhone, si dice Cavour e iPhone. E quindi questo è l'angolo della dogenza di Pisani. I cornflakes vennero inventati nel tardo XIX secolo da un avventista del settimo giorno che rispettava una stretta dieta vegetariana perché questa doveva mortificare la carne. Questo medico, questo dottor John Harvey Kellogg, sosteneva che gli zuccheri o il piccante portassero al desiderio di fornicare e quindi a peccare. Quindi, peccato. Dopo diverse ricerche, riuscirono a biascicare il mais fino a portarlo nella forma che conosciamo di fiocchi di mais, di cornflakes. Appetibilissimi, deliziosi veramente. E così mortificare tutti i suoi pazienti. Ebbe un grande successo questa cosa quando il fratello ci mise dello zucchero. I due fecero lite, il fratello dello zucchero è diventato multimilionario e lui è morto. Ed ha raggiunto mia nonna e carificio. Quindi, che cosa possiamo imparare da questa storia e dalla nostra amica Carrie? Che se la ragazza che vi piace fa colazione e mangia dei cereali, non ve la darà. Sì. Ma se mette lo zucchero, vuole il cazzo. Auf allen America, Rammstein, era il 2004, genere rock slash metal, sì. Anche un po' industrial. Anche industrial, in realtà l'avevi definito più. Beh, anche così. Il testo, parlavamo di Kellogg's americani. Esatto, ci stava, esatto. Ci stava benissimo. Questo è l'ultimo blocco di parlato per questo podcast, terzo della serie di Rockation 2.0. E alleggeriamo un po' quello che è stato il mood della puntata, perché abbiamo parlato un po' di temi un po' più seri, sempre con il nostro mood, ma pur sempre seri. Invece adesso vorremmo parlare di quello che sarà un po' la stagione prossima della televisione italiana. Come sapete, abbiamo anche la media partnership con una nuova edizione del TG Nazionale, il TG1 Vale 1, che per questa puntata è in ferie, visto per che assenza di notizie, per evidente assenza di notizie, perché è Ferragosto, quindi anche le notizie quasi Ferragosto, quindi anche le notizie vanno in ferie. Parliamo invece, diciamo, di quelle che sarà le anticipazioni del prossimo autunno televisivo, con uno dei programmi più conosciuti dalle casalinghe italiane. Parliamo della prova del cuoco, che cambia conduzione. Esatto, cambia conduzione, perché quest'anno il governo del cambiamento ha deciso di dare un taglio netto ai favoritismi. Bravo. Nella TV di Stato. Bravo. Nessun più raccomandato. Esatto. Tutti per concorso, solo per bravura, meritocrazia, eccetera, eccetera. Quindi ha assunto la compagna di Matteo Salvini. Che questo il ministro dell'interno, esatto, diciamo il ministro dell'interno Matteo Salvini e la sua compagna Elisa, il ministro della presidenza del consiglio, Elisa Isoardi, la sua compagna, rivoluziona appunto la prova del cuoco. Piccola anticipazione che possiamo trovare sempre su Repubblica: la nuova conduttrice del programma di Rai 1, portata a successo da Antonella Credici, sarebbe Antonella Credici ma è stata licenziata per il fatto quella della Borra. Starebbe ridisegnando i contorni della trasmissione, quindi cambio di look, cambio di taglio. Esatto, sto ancora ridendo per il fatto della Borra. dopo anni ancora. È un calcio. Attenzione. Voi saprete che lei Soardi è la compagna di Matteo Salvini da più di un anno, quindi è salita la ribalta della cronaca rosa, soprattutto per averlo fatto cornuto l'anno scorso. Esatto. Io che mi diverto cerca a utilizzare questo strumento fantastico che è Google Trends, che dà statistiche e numeri sulle ricerche fatte su Google. Cercando su Google Trends Salvini cornuto, viene fuori che fino al 17 dicembre 2017 non c'è niente. Poi il tasso di ricerca schizza a 100 per poi crollare nuovamente a zero e ripartire in estate. Da aprile a luglio il tasso di ricerca Salvini cornuto è altissimo, perché tutti vogliono sapere con chi scopa la Isoardi. Comunque, Salvini non penso che soprattutto dopo le ultime foto che sono apparse in stile cinico TV di Salvini, con se mangia sempre in continuazione, proprio come un vabbè, non vorrei dirlo, però l'allerta caldo è lui, sta sempre senza maglietta. Tornando all'argomento di cui stavamo parlando, appunto, in arrivo una nuova era alla prova del cuoco, il Cooking Show, portato a successo da Antonella Clerici, si prepara a vivere una stagione davvero inedita. Cambia tutto, abbiamo detto, cambia la presentatrice, il mood per la presentatrice sarà meno da nonna Pina che Spignatta. Dice, riportiamo la qualità. Tra virgolette non è Pina, ma spignata. La voce del verbo spignattare, questo lo vorremmo sapere, perché non cosa lo vuol dire? Quello che riporta il settimanale Spy, mitico settimanale, autorevolissimo settimanale Spy. Come era stato appunto nelle edizioni di Antonella Credici, è più in stile presidenziale. Come si conduce un programma di cucina in stile presidenziale? Questa è una domanda. Chiudi i porti. Chiudendo i porti. Anche poi, però poi un piatto di pesce, come lo fai?

What you gonna do? What you gonna do when I come for you? Bad Boys, Bad Boys, Inner Circle 1992. Questo è sempre di Rockation. Siamo arrivati all'ultimo blocco. Sì. Tu volevi dire una piccola notizia che avevi trovato? Sì, voglio aprire una rubrica che mi sono inventato seduta a stante, che sì? Si chiama Gente che impazzisce. Fondamentalmente, Jaden Smith è un artista, rapper plus, sì, eccetera, eccetera, americano. Pensa che esista un posto nel mondo che nasconde una super tecnologia inventata dagli umani e che si dovrebbe conoscere tutti quanti. Quando il giornalista gli ha chiesto se stesse intendendo qualcosa come Wakanda, sì, quindi di Black Panther, lui ha detto sì, sì, esattamente come Wakanda. Insomma, dopo Kylie Irving che pensa che il mondo è piatto, dopo Donald Trump che pensa di essere un gran presidente, abbiamo anche Jaden Smith. Pensa che l'F-22 sia invisibile davvero. Esatto, esatto. Abbiamo anche Jaden Smith che, fra l'altro, quando ha avuto l'opportunità di parlare con l'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama, sì, gli ha parlato di tu hai questa opportunità nella vita, immagina, no? Sì. Hai portato di stringere la mano al presidente, di chiedergli qualche cosa. Emozione, emozione incredibile, emozione fortissima. Però ne avrei un po' di domande. Sì, sì, tu avresti un po' di domande, sì, eccetera, eccetera. Lui gli ha chiesto dell'esistenza degli alieni. E cosa gli è stata alla risposta? Quale domanda Obama, da che poi gli si può dire tutto, ma insomma, da una persona incredibilmente intelligente e sarcastica, l'ha detto: non posso né smentire né confermare questa notizia. Cosa che lui non si è reso conto di essere stato trollato dall'uomo più potente della terra. Il cortocircuito del cervello e ha detto ha chiaramente detto al tizio che lo stava intervistando: questa è una grande vittoria, ho finalmente avuto la conferma che gli alieni esistono. Non ha né smentito, cioè, non posso né smentire né confermare questa cosa. Grande Barack Obama. E con questa notizia vogliamo chiudere questa terza puntata di The Rockation 2.0. Speriamo di esservi piaciuti, di esservi, come dire, informato, divertendovi. Se vi abbiamo detto qualcosa che non sapevate, rispondeteci, commentate. Sì. Se vi fate i beveroni, scrivete un hashtag: io faccio i beveroni. Sì. E se volete qualcuno, dibattito. Vogliamo il vero volto di questo paese, no? Se non vi piace lei Soardi, chi vorreste la prova del cuoco? Questa è la domanda che vogliamo fare a tutti, perché chiudendo questa puntata vorremmo dirvi che Zazzone, Pisani e il buon Silvius, con la regia del buon Cappello, il Redim, vi danno appuntamento alla prossima puntata, e il quesito appunto è: a me piace immaginare la prova del cuoco che si apre con il ministro Toninelli, sì, pippa un raglione di chetamina, sì, guarda dritto in camera e...